Vendo tutto di Matteo Caccia. Inizio, sviluppo e fine. Tutte le storie hanno sempre questa struttura. Succede qualcosa, quel qualcosa ha un'evoluzione che porta a dei cambiamenti e poi ad una risoluzione finale. Non so come la pensiate voi, ma secondo me alla fine non è così male che le cose finiscano. Che la ragazza mi ha lasciato ormai ve l'ho detto, così come vi ho detto che tutti almeno una volta vengono abbandonati e che io questa volta avevo deciso di liberarmi di tutto. L'ho fatto. Ho venduto la mia vita e ora sono pronto a ricominciare. Per ricominciare però tocca fermarsi qui. Signori, si chiude. Questa è l'ultima puntata. Oggi vendo casa mia. Sono le 16:07, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, ma soprattutto oggi è venerdì 2 luglio 2010 e quindi il giorno è arrivato. Il giorno della fine, ho venduto 120 cose in questi 6 mesi e ho finito. Oggi vendo la cosa che metaforicamente, ma mica tanto metaforicamente, è un po' il rifugio di ciascuno di noi, cioè la mia casa. Potete andare a vederla sul sito, non credo sia sul solito sito di eBay, giusto Tiziano? Hanno fatto un link particolare perché le case non si possono vendere negli annunci particolari ma negli annunci di eBay. Comunque la trovate attraverso il profilo Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Sono le 16:07, buongiorno a tutti, bentornati per l'ultima volta qui a Vendo Tutto. Allora diciamoci le cose come stanno. Sono 6 mesi che vi dico che vendo tutto e che ricomincio da capo. Vorrei fare la stessa cosa che ho fatto ieri con voi, e cioè, visto che ieri vi ho chiesto cosa vi era accaduto in questi 6 mesi, visto che era da un po' che io vi raccontavo cosa era accaduto a me e volevo sapere cosa era accaduto a voi, vorrei fare la stessa cosa però riguardo proprio a quest'idea, quello del ricominciare da capo, no? Perché non è che serve pigliare tutte le proprie robe, venderle, farci un programma, raccontarci la storia e ricominciare da capo. Basta semplicemente mollare un lavoro, basta mollare un marito, una moglie, un fidanzato, basta cambiare casa, basta trasferirsi o magari basta anche semplicemente modo di vedere le cose. E quindi questo vorrei sapere da voi oggi. Vorrei sapere quante volte, quando avete ricominciato tutto da capo nella vostra vita. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Non vorrei leggere tutti i messaggi che mi mandate, cioè li leggo io ma non vorrei leggere in diretta, però oggi me ne è arrivato uno, è arrivato questa mattina, ed è un ascoltato, in questo caso un'ascoltatrice particolare perché non è una degli affezionatissimi. Molti scrivono ti ascolto dal 18 gennaio, lei no, ha cominciato abbastanza tardi, però lo trovo abbastanza emblematico. Caro Matteo, lo dico a te e a tutti quelli che lavorano per la tua trasmissione. Mi avete fatto compagnia per notti intere, essendo insonne cronica dall'infanzia. A mezzanotte e mezza in punto ero già lì in attesa della replica notturna. Ho scoperto la trasmissione da poche settimane e l'unico rammarico è essermi perso a tutto l'arco di questi 6 mesi. Però in poche settimane, grazie a te, ho cominciato a gettare via un sacco di cose inutili. Soprattutto ho buttato via dei pregiudizi, delle scatole piene che avevo in testa. In sintesi, ho deciso a 50 anni di fregarmene della taglia 40, di non volere più sembrare una ventenne. Ho comprato un paio di jeans e delle belle camicie, ho buttato via i vestiti che non mi esprimono più. Ho preso i 2 visoni dell'armadio che erano l'orgoglio di mia madre, li ho tagliati per farne una cuccia invernale per il mio cane. Naturalmente via tutte le foto degli ex, via soprattutto le lettere in cui ti giuravano che eri la donna della loro vita, via tutti gli oggetti che non servono, quindi via tutto quello che ci sembra indispensabile che teniamo lì e non usiamo più. Grazie Matteo, un saluto in allegato anche da Tommy, il mio cane, che credo si sia abituato alla tua voce, non ci posso giurare, ma ad ogni inizio di trasmissione accennava un battito di coda. Buona estate, Vanna. 800 24 0024, 349 238 6666. Veramente non serve vendere tutto per cominciare da capo. Raccontatemi che cosa avete fatto per ricominciare da capo. 800 24 0024, 349 238 6666. Mi piacerebbe anche dire che non mi piacciono i commiati lamentosi, però non è vero, in realtà mi piacciono quando ci si sta lì e si rimugina per mezz'ora e si lacrima un po'. Non farò questo, però quello che volevo dire è che di fatto io ho fatto un qualche programma radiofonico nella mia vita prima di questo, nel senso che lo faccio di lavoro questo. Però questo è stato il programma che mi ha dato maggiore possibilità di incontrare le persone che ascoltavano questo programma. In che modo? Attraverso gli oggetti che ho venduto. Moltissimi li ho spediti, però ormai ve l'ho già raccontato più di una volta, moltissimi invece li ho proprio consegnati a mano, cioè le persone sono venute a prendersi gli oggetti e quindi questo mi ha dato modo di conoscerle. E oggi volevo fare proprio un punto, perché stamattina mi sono messo lì sul mio profilo eBay lei, ho guardato tutte le persone che avevo incontrato, che cosa si erano comprate, e ho capito che in realtà alla fine questo programma era sì la mia storia, la menate, gli oggetti e Giulia e tutte quelle palle, però erano soprattutto anche alla fine le storie vostre, le storie di Luca ad esempio, che si è comprato la lampada che vola e a breve prenderà il brevetto di volo, ma la storia di Giovanni anche, che si è comprato un umidificatore per far respirare meglio sua figlia. Sono la storia di Giacomo e di Chiara, che vivono in Svizzera, e a febbraio mi sono comprate il mio quadro con la donna che rispondeva al telefono per arredare la loro casa, e anche Gregorio di Brescia, che si è comprato la mia TV aspettandone di comprare una migliore, Davide che si è preso la lavatrice e il ricettario e sta mettendo su casa anche lui con la sua fidanzata con gran parte delle mie cose, e poi Luca che si è comprato una bussola e va a vela, Marta che si è comprata una maglietta da pallavolo, lavora, studia e suona tutto all'insaputa della famiglia, Marco che si è preso la mia cerata, Carlo Alberto, insomma sono una marea, Andrea la sparagiera, lui suona e cucina, Daria è andata a farsi il mio corso di vela, insomma voglio ringraziare tutti quelli che ascoltavano, ma anche loro che si sono comprati i miei oggetti e che si sono palesati davanti ai miei occhi. 800240024, perché voglio sentire la vostra storia di quando voi avete ricominciato da capo, quando è successo e come l'avete fatto. La mia casa è sul sito, andate su Facebook e trovate il link per sentire la sua storia. Pronti, via. Il monolocale. Metri quadrati 45, completamente vuoto. Ristrutturato di recente, dotato di balcone e posto moto interno, riscaldamento autonomo, aria condizionata e parabola condominiale. Situato a Milano in zona Ripamonti. Perfetto per un single o per una coppia che va molto d'accordo e non teme la convivenza stretta. Valore commerciale 187.000 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. La mia casa era la casa di un falegname. Quando l'ho comprato era stata rilevata da un'impresa che l'aveva presa, ribaltata come un calzino, e l'aveva fatta assomigliare a tutti i piccoli edifici di una grande città. Però di fatto in questo piccolo palazzo ci avevano abitato per anni un falegname e la sua famiglia. Sui tre piani della casa c'erano un sacco di stanze, e nel cortile, quello che adesso è un loft, era la falegnameria. L'impresa edile l'ha divisa in parti e poi l'ha venduta a pezzi. Ho sempre cercato di capire che parte della casa fosse stata il mio appartamento. La zona giorno, ad esempio, oppure la cucina, il tinello. Magari le stanze da letto del falegname o quelle dei suoi figli. Non è perché io ci senta dentro qualcosa, non ho alcuna capacità medianica, robe tipo che percepisco le vite di altre persone rimaste addosso ai muri, no. Mi piace solo immaginare quante vite può aver vissuto casa mia. Cioè, quante volte questa casa ha iniziato tutto da capo. È sicuramente una, col falegname prima e con me poi. E adesso è pronta a ripartire ancora. Chissà, magari la compra il mio vicino che apre una porta e unisce le due case. Oppure la prende uno studente fuori sede, che la vive solo 5 giorni a settimana. È strano però, perché il fatto che nelle stesse quattro mura si possano costruire un sacco di spazi e di vite diverse, che si possano tirare giù muri, costruire pareti, togliere pavimenti, alzare soffitti, non so perché, però mi dà una strana speranza. È come se ogni fine avesse un senso, perché lascia lo spazio a qualcosa di nuovo. E non che la cosa nuova sia per forza migliore, è semplicemente nuova. E rimarrà tale fino a che avrà una qualche strana forza propulsiva, qualcosa che la spinge a proseguire, qualcosa che spinge lei e chi le sta intorno fino a quando non ce ne sarà più e si passerà ad un'altra vita e a un'altra casa. E voi invece? Quante volte avete ricominciato tutto da capo? She takes me home. She takes me home. I wish I was dead. When I came to, I walk alone. I am not known. Another one sighs. When I make ties, ties, ties, ties. E poi soprattutto, come si vende una casa? Sì, vabbè, certo, si mette un'inserzione e si aspettano le offerte. Quello che voglio dire però è come ci si prepara a vendere la propria casa. È troppo facile dire che la casa è un nido, che ne ha viste un sacco, che probabilmente contando anche solo le ore di sonno negli ultimi 10 anni qui ho passato molto più tempo che in qualsiasi altro luogo. Perché alla fine la casa non è altro che dell'aria chiusa tra quattro pareti. La casa è lo spazio che c'è dentro, è il modo in cui noi ci stiamo in quello spazio. sono le persone che abbiamo ospitato e quelle che non abbiamo mai fatto entrare. È la neve vista fuori dalla finestra la prima volta. Sono le tapparelle abbassate per chiudere fuori il caldo di luglio. Sono i mobili che abbiamo scelto e trasportato smoccolando su per le scale. Sono i vicini che detestiamo e quelli che non conosciamo nemmeno. La casa è la sveglia che suona la mattina presto. È il televisore acceso la notte sul divano. Sono le domeniche pomeriggio a pensare che il fine settimana è già andato e non si è combinato niente. La casa è il frigo vuoto, ancora una volta, come sempre. Sono i genitori invitati a cena da noi e non noi a cena da loro. La casa sono le volte che abbiamo pianto da soli senza un vero motivo e le volte in cui invece il motivo c'era. La casa è quando rientravi con le valigie da un viaggio ed eri felice di essere ancora lì. Ma soprattutto la casa è il modo in cui abbiamo pensato sarebbe andata la nostra vita e quello che poi ci siamo trovati tra le mani. E se quello che avevamo per le mani non ci piaceva, allora la casa è stata anche la forza di mollare tutto e di costruirne una nuova, in un altro posto, con altre persone, chiudendoci dentro aria nuova. Ecco perché oggi io finisco qui, perché è arrivato il momento di dare via questa casa e di ricostruirne un'altra. E quindi, ecco come si vende una casa, pensando alla prossima. Quindi, nonostante tutto, casa mia è in vendita. La vendo e ricomincio da capo. E voi invece? Quante volte avete ricominciato tutto da capo? 800240024. And so I wait for you. Questo cantante si chiama Obadiah Parker, è un po' il marchio di fabbrica della Factory Bonini e vi ricordo, visto che molti lo chiedono, tutti i brani che abbiamo mandato in onda sono sulla pagina di ogni puntata di Vendo Tutto, quindi se andate sull'archivio in fondo, oltre all'oggetto e alla storia della puntata, trovate i due brani che abbiamo mandato. 800240024 349-238-6666, avete ricominciato da capo un sacco di volte e me lo raccontate anche perché sono le 16:20 e mancano meno di 10 minuti alla fine di questa puntata e quindi di questo programma. C'è un ascoltatore in particolar modo, non ha chiamato lui, l'abbiamo chiamato noi, perché è stato un ascoltatore abbastanza silente, semplicemente lui e sua moglie scrivevano su Facebook, abbiamo piano piano imparato a conoscerli dalle poche cose che ci scrivevano e dalle foto che caricavano. Loro hanno cambiato vita, nel senso che hanno preso, sono andati a vivere a Nizza e lì credo abbiano aperto un negozio. Pronto Marco? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno e grazie per essere qua. Grazie a te. Senti, mi racconti un po' la storia tua e di Antonella, perché appunto, come dicevo, noi non ci siamo mai realmente sentiti, però Facebook è un posto in cui in un modo o nell'altro ci si incontra e abbiamo capito che tu e Antonella siete andate a vivere a Nizza, giusto? Sì, esatto, esatto. Mm. E la storia è così, ci siamo conosciuti su un sito, anche su un blog che si chiama Vox, sì. Era pre-Facebook. Lei era di Arco di Trento, io ero di Milano, ma in quel momento a Como per lavoro. Sì. Lei ha avuto la spassa idea di venire a Como lasciando tutto, è il suo primo lasciar tutto. Siamo stati lì 2 anni, però quando avevo un'attività, un negozio di computer. Sì. Quando l'ho chiuso ci siamo detti, ma che facciamo qua a Como? Io ero di Milano, lei era di Arco. E siete andati a Nizza? Aspetta, abbiamo detto torniamo a Riva e ci siamo fatti una vacanza in America. Al ritorno mi sono preso 2 multe di fila per motivi stupidissimi, mi sono arrabbiato, adesso io l'Italia non la voglio più. Ma scusa, 2 multe di che tipo? In strada o? Multe per cose stupide, perché eravamo in America, non era arrivato il bollo e allora il vigilista diceva che non poteva fidare, cose adesso troppo lunghe da spiegare, okay. Banalità burocratiche, sì. Io mi sono arrabbiato, adesso sai cosa? L'Italia non voglio più pagare le tasse, andiamo in un'altra nazione. Vedi. E abbiamo scelto Nizza. Poi ti passo Oscar Giannino per parlare di questa cosa direttamente. Esatto. Quindi insomma, e siete andati a Nizza e cosa fate a Nizza? Dunque c'è una rete di franchising italiana di fotografia che voleva espandersi, ci ha chiesto se volevamo provare a farlo noi per primi e niente, ci siamo trovati un negozio a circa 1 minuto e mezzo, no esagero, 3 minuti dal mare, per cui nell'intervallo pranzo si può fare il bagno e ti assicuro che è una cosa bella scelta. Non è male. Da quanto siete lì Marco? Gennaio. E l'ultima cosa, quanti anni avete? Dunque, io ne ho 50, se mi ricordo, 50, e lei quanti anni? 42. Ah, ma c'è anche Antonella? Sì, sì. Bene, quindi 50 e 42, si può fare allora, Marco? Arca, consiglio a tutti, contattatemi se volete farlo. Marco, grazie mille, saluti Antonella e ci sentiamo presto. Complimenti. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao Marco, grazie mille. 800240024, andiamo invece a chi ci ha chiamato, andiamo da Marco. Pronto Marco? Ciao. Ciao, ciao, buongiorno, Matteo. Come stai? Bene, grazie. Senti, tu... Io ho cambiato vita, sì. Tu hai cambiato vita, però non come ha fatto l'altro Marco. Cosa è successo esattamente? Io e Claudia siamo diventati 5 praticamente. Pronti via? Pronti via, 3 bambini africani, quasi 2 anni che siamo qui con loro. È fantastico. Ma qui dove, scusami Marco? In Italia. Ah, no, adottati. Sembrava in Africa. No, l'avevo capito che l'avevate adottati. Senti, tutti insieme? Tutti insieme. Sono fratelli, fratelli loro? Sì, sì, meravigliosi. E come si chiamano? Abenezer, Miret e Cidis. Ma non sono etiopi. Non sono lì con te in questo momento? No, no, sono con la mamma. Senti, la trafila è stata lunga, è stato il solito casino? È stata lunga, un paio d'anni, ma veramente se uno ci crede... c'è molta speranza. Senti Marco, ma com'è che ti cambia la vita? A parte il fatto che chiaramente la tua giornata cambia perché ti devi svegliare la mattina, fargli la colazione, portarli a scuola, ma come ti cambia la vita avere 3 furie di 8, 6 e 4 anni che da un giorno all'altro, neanche con i 9 mesi di preavviso, no? Da un giorno all'altro ti piombano in casa? Innanzitutto puoi dargli amore e poi ne ricevi tanto. Ok, quindi non mi vuoi dire tipo che non dormi la notte? No, in realtà no, perché poi dormi la notte. No, dormo benissimo, a parte quella piccola che ha 4 anni che viene tutte le mattine nel letto. Ok, senti Marco. Però siamo già verso le 6:30, 7 di mattina. Quanti anni hai tu? Io 40. Che lavoro fai? Istruttore di scuola guida. Beh, e stai guidando? No, sto insegnando. Cioè, sei seduto di fianco? Sì, di fianco. Ma chi è che sta guidando adesso? Ah, una ragazza. E com'è, brava? Sì, è brava. Ma senti, ma è vero che voi poi ti lascio andare? Io quando ho fatto l'esame di scuola guida, il mio istruttore durante l'esame toccava sempre i pedali. Non tocchi lei, per piacere. Non si può. Ok. Diciamo che siamo abbastanza in simbiosi con i ragazzi di fianco. Cioè, in che senso in simbiosi? Nel senso che cerchiamo sempre i risultati. Senti Marco, quindi anche tu a 40 anni si può fare? Sì, io quasi 2 anni che l'ho fatto ed è fantastico. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie a te Matteo. Ciao, alla prossima. Crepi anche ciao. A te. Ciao, ciao. Ultima telefonata di oggi e dell'anno, direi. Francesco dalla Marmolada. Pronto? Ciao, pronto. Francesco, scusami, cosa ci fai sulla Marmolada? Guarda, da oggi sono il gestore del rifugio Capanna Punta Penia, che è il rifugio più alto di tutte le Dolomiti. Scusa, vedo Laura Fagin che si agita. 43 metri. Laura Fagin si agita perché dice che ci va. Scusa, mi ricordo. Invitati tutti, visto che oggi finite. Guarda, sicuramente. Aspetta, l'altitudine hai detto che è? 3.343. Io non so se ce la faccio, mi sa che io già 2008, vista l'esperienza, mi sa che comincio a bollire e vengo a prendere sotto le slavine. E tu cosa facevi? Come hai cambiato vita? Quando l'hai fatto? Guarda, io ho fatto un dottorato di ricerca in fisica, lavoravo in Francia in un laboratorio, sì, a Parigi, e a un certo punto mi sono detto questa non è la vita che volevo fare. E ho chiuso il dottorato, l'ho finito, bene. E ho deciso che volevo prendermi del tempo per me. Ho iniziato a viaggiare, sono stato 7 mesi in Sud America. Ho girato. Quanti anni hai tu, Francesco? 31. Senti, che cosa hai intorno a te in questo momento? Sei nel rifugio? Sono nel rifugio, c'è l'Aurelio qua che sta. Saluti all'Aurelio. A sistemare. L'Aurelio è il padrone del rifugio. Ci sono ospiti, c'è gente che mangia, stai preparando per la cena? No, purtroppo abbiamo avuto gente solo a pranzo, stasera non c'è nessuno. Ma come no? Ma non è cominciata adesso la stagione? Sì, sta iniziando adesso. Sì, è un po' nuvolo fuori. Ah, che temperatura c'è? Ma saranno 10 gradi. Senti, Francesco, tu sei l'ultima telefonata di questa di questo programma, quindi io ti saluto. L'ho seguito. Grazie, saluti a te e all'Aurelio. Grazie. Ciao Francesco. Ciao, grazie. Ciao, un abbraccio, ciao. L'ultima cosa che devo mandare per l'ultima volta è il motivo per cui tutto questo è cominciato, il motivo per cui tutto questo è venduto, che no, non è Giulia, è semplicemente la lista dei miei desideri. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi, scalare il Monte Rosa, attraversare l'Atlantico su una nave cargo, lanciarmi col paracadute da 6.000 metri, sposarmi a Las Vegas, non importa con chi, giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo, portare a cena fuori Natalie Portman, fare un viaggio in mongolfiera, spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli, imparare a suonare la batteria, incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama, fare un viaggio con la Transiberiana, vedere una finale del Super Bowl, vedere il Taj Mahal, attraversare la foresta amazzonica, vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada, imparare il cinese, imparare l'arabo, prendere il brevetto da pilota e quello da sub, e poi imparare a camminare sul filo. Alessia D'Ameda mi scrive: Matteo, scusa, ma da domani non ti sentiremo più in radio? No, da domani no. Sono le 16:28 minuti, siamo già in un incredibile ritardo. Non posso però non ringraziare le persone che hanno, come si dice, reso possibile questo programma. A partire da Stefano D'Andrea, che ha scritto alcune delle puntate di questo programma insieme a me. Laura Faggin, che ha gestito e governato noi e ci ha sopportato in studio, in regia e in redazione. Tiziano Bonini, che ha curato il suono, le musiche e molto di più, ovviamente, di questo programma. Alessandro Genovesi, che ci ha messo dentro le idee, che oggi è in studio con me, di ciao! Ciao! Ringrazio anche però Paolino Corleoni, che non si può dire che è il nostro tecnico, ma per certi versi è il nostro tecnico. Ringrazio anche quelli che in redazione di là dal vetro ci stanno vedendo e ci hanno sopportato mentre noi tre vagavamo tra le scrivanie della redazione come gli scolaretti al primo giorno di scuola. Io sai cosa faccio? Vi saluto, mi allontano dal microfono, lascio giù qui le cuffie, saluto Paolino. Ah, e ultima cosa anche, sai cosa? Giulia, ma vediamo andare a fanculo, va! Ciao ragazze, ciao Rosa, ciao Mico. Ciao. Oh, là, è andata. Sto quasi uscendo finalmente dalla splendida serra del Sole 24 Ore. Sono le 4:30 del pomeriggio, è venerdì 2 luglio ed è finita. Sono in via Monterosa 91, davanti a me c'è la redazione del Sole 24 Ore, c'è la di 24. Sai cosa? Lascio qui il microfono e qualcuno se lo verrà a prendere. Io vi saluto, grazie di tutto, ci sentiamo non so quando, buona estate e se vi capita, io sono qui! Love, love, love, wherever you...